Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni, ultima puntata della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Gli utili delle banche americane, continuano ad arrivare infatti i dati trimestrali e anche qui una precisazione la facciamo subito, siamo tutti contenti che le banche d'affari americane e in generale le banche europee e occidentali tornino a macinare utili, vuol dire che perlomeno sul fronte finanziario si è fuori dalla crisi. Vorremmo però capire come stanno realizzando le banche, in questo caso americane, i loro utili, perché poi se si va a guardare si scopre, nel caso più clamoroso, quello di Goldman Sachs, che gli utili triplicati nel terzo trimestre sono stati triplicati soprattutto grazie all'attività più speculativa che c'è, cioè il trading, la compravendita anche a livello di secondi, di minuti, di titoli azionari, di materie prime, di contratti derivati, di obbligazioni, insomma di quella finanza molto molto speculativa che, per essere buoni, qualche problemuccio l'aveva creato un anno fa. E poi vorremmo capire come mai un colosso come Goldman Sachs, per esempio, ha già messo da parte 17 miliardi di dollari da distribuire in bonus ai suoi manager proprio quest'anno, insomma, così, avendo ricevuto 10 miliardi dallo Stato americano l'anno scorso per appunto reggere il colpo della crisi. Di questo parleremo in apertura perché il problema c'è tutto, evidentemente c'è una forza tale in Wall Street che nemmeno l'amministrazione Obama sta riuscendo a correggere la rotta. Poi parleremo di mercati finanziari come sempre, devo dire che la settimana si sta chiudendo con qualche realizzo, ma anche questa settimana le borse complessivamente hanno guadagnato. Parigi oggi perde l'1,40, Francoforte pure, Londra perde lo 0,90, l'America perde l'1% in questo momento sul Dow Jones, Milano perde lo 0,7% con Buzzi Unicem in rialzo dell'1,2%, Campari e Monte dei Paschi dello 0,8%, Eni dello 0,7%, e qui c'è una notizia di mercato che riguarda un giacimento di gas, ne parleremo più avanti. Tenaris più 0,2%. Fronte opposto, ST Microelectronics meno 3%, Geox meno 2,60%, Fondiaria meno 2,3%, il 2% lo perde Pirelli, ma anche Banco Popolare. L'1,90 è il calo di Mediolanum, l'1,6 è quello di Intesa, di Generali e della Popolare di Milano, ma anche di Autogrill e di Parmalat. 1,5% infine lo cedono Finmeccanica, Mediobanca e Prismian. L'1,4 è il calo di Ansaldo, Impregilo, Fiat e CIR, mentre Unipol, Exor e Unicredito perdono l'1,2%. Sempre molto forte l'euro, a quota 1,49 nei confronti del dollaro, oltre che di utili in alcuni casi inattesi delle banche americane e dei mercati finanziari, parleremo chiaramente anche di altri temi che riguardano questa giornata economico-finanziaria. Uno su tutti, di nuovo un allarme lanciato dal mondo dell'agricoltura sui prezzi. Avete sentito che in Francia ci sono state proprio manifestazioni di piazza, scontri anche tra gli agricoltori che lamentano in Francia come in Italia lo stesso problema, crollo dei prezzi a cui vendono i beni, mentre sul banco, sugli scaffali, i prezzi non sono scesi, in alcuni casi sono anche aumentati, e gli agricoltori sono infuriati per queste differenze in cui loro ci rimettono e basta. 349-238-6666 per gli sms, dicevo, le altre notizie in breve. Un aggiornamento lo daremo anche su una notizia che sto per leggere, riguarda il commercio con l'estero italiano. Purtroppo il commercio con l'estero italiano oggi ha registrato un brutto dato. Ad agosto meno, quindi il deficit del bilancio commerciale è stato di 1,340 miliardi di euro, inferiore al deficit di un anno fa, che era di 2,150 miliardi. Però questo è dovuto solo al fatto, di nuovo, che le importazioni sono calate molto più delle esportazioni. Però se si guarda il dato, abbiamo fatto meno 25% nelle esportazioni, meno 26% nelle importazioni. Tra l'altro, il dato così che preoccupa di più non è quello dell'anno su anno, cioè agosto 2009 su agosto 2008, ma è il mese su mese, agosto su luglio, perché anche rispetto a luglio c'è stata una frenata delle nostre esportazioni, meno 7,7%, e in particolare in Germania, in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna, e nei settori, i settori colpiti sono quasi tutti: meccanica meno 27,5%, mobili meno 30%, mezzi di trasporto meno 24%, abbigliamento e calzature meno 21%, elettronica meno 23%, chimica meno 25%. Quindi un dato pesante sull'export, che è in linea, lo ricordo a chi ci sta già scrivendo, con quell'indice che ogni tanto vi proponiamo, il Baltic Dry Index. Non è che siamo fissati, ma misurando il costo del noleggio del cargo a livello mondiale per trasportare le merci, quando questo indice cala vuol dire che si paga molto meno per trasportare una tonnellata di mais, di rame o di quello che volete voi, tutto tranne il petrolio, e quindi il commercio mondiale non sta ripartendo come ci si attende. Questo indice, dopo la sberla presa nel 2008, era risalito fino a luglio a 4.000 punti, è ridisceso a 2.000 punti, cioè si è dimezzato proprio negli ultimi due mesi. Per la precisione, da giugno, quando era 4.000 punti, è sceso di nuovo a ottobre a 2.695 punti, e questo, diciamo, va in parallelo con l'indice di oggi sulle nostre esportazioni. Il petrolio supera i 78 dollari al barile, sale ai massimi da un anno a questa parte, e soprattutto il calo delle scorte americane a spingere i prezzi del petrolio, calo che si è registrato la settimana scorsa. Nel frattempo, sempre in tema di energia, Eni ha effettuato una scoperta di idrocarburi di rilevanza mondiale nelle acque venezuelane, perforando con successo un pozzo esplorativo nel giacimento denominato Perla, nel Golfo del Venezuela. Potrebbe contenere, si legge in una nota dell'Eni, una quantità di gas superiore ai 160 miliardi di metri cubi precedentemente stimati. E dicevamo degli agricoltori francesi, è proprio così, insomma, il mondo agricolo sta morendo, lamentano gli agricoltori che sono messi a bruciare pneumatici nei campi Elisi, e hanno tra l'altro bloccato il traffico. Praticamente in Francia un chilo di grano si vende a 9 centesimi e costa invece a chi lo produce 14 centesimi, quindi ci perdono 5 centesimi al chilo. Ma ripeto, anche di questo parleremo più avanti. È allarmante il numero dei processi per corruzione che si chiudono per decorrenza dei termini, nonostante vi siano prove schiaccianti contro gli imputati. Questo è il giudizio di Strasburgo, del quadro, è il giudizio oggettivamente desolante che Strasburgo e quindi il Consiglio d'Europa dà oggi anche sulla corruzione in Italia. Il rapporto è sulla corruzione in tutti i paesi, ma insomma, lo dico in maniera assolutamente asettica, ma dal Consiglio d'Europa arriva una critica all'Italia perché i processi per corruzione non riescono ad essere fatti per decorrenza dei termini, i pubblici amministratori restano al loro posto nonostante siano corrotti per mancanza di adeguate sanzioni disciplinari, vi è una totale assenza di misure, dice Strasburgo, per contrastare e punire la corruzione di parlamentari e membri del governo, se non il difficile ricorso al processo penale. E poi un aspetto che riguarda non noi ma il GR, che susciterà polemica, una critica forte a Lodo Alfano, e le uniche, diciamo, critiche positive, lo dico, dal Consiglio d'Europa arrivano alla magistratura italiana, alla Confindustria, alle Camere di Commercio, queste ultime perché hanno preso iniziative come l'espulsione dei membri che pagano il pizzo. Ultimo dato e poi passiamo al primo tema, la produzione industriale negli Stati Uniti ha registrato un aumento superiore alle previsioni nel mese di settembre, più 0,7% della produzione industriale negli Stati Uniti, e anche la fiducia dei consumatori ha sorpreso, però questa volta in negativo, infatti calata a 69 punti, con analisti che nella maggior parte dei casi si attendevano un rialzo a 73 punti. Allora, in tutto questo, mentre la fiducia dei consumatori americani scende contro ogni previsione, mentre ancora sul fronte del commercio mondiale c'è più di una perplessità, e lo vediamo anche noi con i nostri dati, c'è un settore dell'economia americana, poi vedremo anche quelle italiane e europee, che è già uscito pienamente dalla crisi. Incredibile a dirsi, è il settore che la crisi l'ha creato, ossia le banche d'affari. Abbiamo infatti raccontato in questi giorni delle trimestrali di Goldman Sachs, di Citigroup, di JP Morgan, scusatemi, di Goldman Sachs, di Citigroup, e oggi è arrivata anche, oltre a JP Morgan, quella di Bank of America. Devo dire, Bank of America ha chiuso in rosso il terzo trimestre, $1 miliardo di perdite. Praticamente a questo punto è completato il quadro delle grandi banche d'affari americane. A parte Bank of America, tutte le altre hanno avuto utili record. Ne parliamo allora con Luigi Zingales, che è docente di imprese e finanza all'Università di Chicago, è collegato con noi da Chicago, editorialista del Sole 24 Ore ed è anche uno dei membri del team di economisti che ha il compito di rilanciare Wall Street con nuove regole e nuove norme. Buonasera professore. Buongiorno, perché qua da me è giorno. Ha ragione anche lei. Allora, gli utili di queste delle banche d'affari americane, al di là di Bank of America, che come dicevamo ha registrato una perdita in realtà nel terzo trimestre, $1 miliardo e 2,5 miliardi di svalutazioni che hanno annullato gli effetti positivi dell'acquisizione di Merrill Lynch, abbiamo visto tutte le altre grandi banche d'affari chiudere il terzo trimestre con utili. Citigroup 101 milioni di utile, e poi JP Morgan 3,5 miliardi di utile nel terzo trimestre, e anche se la banca ha accantonato 2 miliardi, altri 2 miliardi, in tutto ne ha 31 di miliardi per eventuali sorprese e potenziali perdite nel futuro, e poi soprattutto, professor Zingales, il caso di Goldman Sachs. E qui dentro c'è tutta la domanda e anche la polemica attuale. Perché Goldman Sachs ha triplicato i suoi utili nel terzo trimestre, li ha portati a 3 miliardi di dollari. Come l'ha fatto? L'ha fatto non con attività di asset management, quindi di gestione dei risparmi, né dalla parte di consulenza finanziaria o di investment banking. L'ha fatto nella quella parte più speculativa possibile, ossia l'attività di trading, che vuol dire compravendita anche in tempi rapidissimi, infinitesimali, di azioni, valute, materie prime e obbligazioni. E questa roba qua ha raddoppiato le entrate di Goldman Sachs, 12,5 miliardi. Come se non bastasse, la banca ha già messo da parte quasi $17 miliardi da distribuire in bonus a fine anno. E Goldman Sachs era stata aiutata per $10 miliardi dal governo americano nella parte più pesante della crisi. Professor Zingales, qualcosa non torna, perché insomma questa banca triplica gli utili e anche le altre vanno quasi tutte bene, con l'attività più speculativa che c'è, cioè il trading su titoli, su materie prime, su obbligazioni, e come se non bastasse ha già messo da parte $17 miliardi di bonus da distribuire, in media $500,000 a dipendente. Siamo tornati ai vecchi vizi? Assolutamente, perché cioè, il problema non è tanto che una banca faccia profitti, vorremmo che tutte le banche facessero un'adeguata quantità di profitti. Il problema è che abbiamo un sistema in cui i profitti vengono privatizzati e le perdite vengono socializzate. Quindi dobbiamo in qualche modo risolvere questa tensione, e ci sono due visioni del mondo. C'è la visione del mondo che dice che bisogna socializzare anche i profitti, e c'è invece una visione del mondo, che è la mia, che dice che bisogna privatizzare le perdite. Quindi bisogna essere sicuri che queste imprese vengano penalizzate, e anche chi lavora in questo settore venga penalizzato quando le cose vanno male. E abbiamo perso un'enorme occasione l'anno scorso, e la cosa più importante in questo momento sarebbe quella di cercare di riformare, ad esempio, i sistemi di requirement, cioè di capitale di rischio richiesto per operare, al fine di forzare un costo effettivo nel prendere rischio, mentre oggi molte di queste imprese prendono rischio senza pagarne il costo, avendo solo i vantaggi ma non i svantaggi. Ecco, su questo occorre capirsi, perché noi abbiamo visto che nella crisi, nella parte peggiore, abbiamo scoperto che c'erano banche che avevano, diciamo, 4 euro di capitale per ogni 100 dollari, 100 euro investiti. Allora, è chiaro che in questo caso anche l'azionista vuole massimizzare il rischio, perché tu rischi solo 4 dollari e in realtà ci guadagni su 100, perché se ne hai 100 investiti, diciamo, rischi solo su 4. La domanda che lei si faceva è: ma perché uno dovrebbe prestare 96 euro a una banca che è esposta in questo modo? Cioè, perché dovrebbe, perché tanto si sa che le banche, anche in America, l'abbiamo appena visto, sono garantite dallo Stato, cioè non possono fallire. Ecco perché poi c'è una simmetria tra la possibilità di rischi che tu ti puoi prendere come banca e diciamo la tua affidabilità nei confronti dei creditori, perché tanto sanno che non puoi fallire. Come si esce da questo meccanismo? Sì, no, lei ha perfettamente ragione. Volevo solo dire che è vero per le grosse banche che non possono fallire. Nel senso che se è vero che esiste una sicurezza per i depositi per tutte le banche, le piccole banche possono fallire e falliscono tutti i giorni. Cioè, quest'anno, dall'inizio del 2009 ad oggi, 100 banche americane sono fallite e non solo gli azionisti, ma anche i creditori non depositanti, ma i creditori hanno perso soldi. Il vero problema sono le grosse banche e la soluzione che io ho proposto insieme con un mio collega di Harvard è di avere un sistema di capitale tale per cui esiste un indicatore di mercato, che poi adesso le spiego, che quando questo indicatore di mercato segnala che il debito è a rischio, il regolatore interviene subito prima che la parte sistemica delle obbligazioni, quindi i depositi e gli altri contratti, siano a rischio. Mi spiego meglio. Noi prevediamo un sistema di doppio strato di protezione, uno strato di protezione di capitale di rischio e uno strato di protezione di debito a lungo termine che sia subordinato a tutte le altre obbligazioni della società. E poi vogliamo avere un sistema di credit default swap su questo debito, e questo sistema di credit default dà un indicatore di mercato su quanto affidabile è il debito, e nel momento in cui il debito, questo debito che è subordinato, quindi è il primo a essere a rischio, segnala dei rischi, il regolatore interviene e blocca le operazioni della società, ma avendo comunque ampio margine, perché anche se la copertura di equity fosse tutta stata bruciata, rimane comunque la copertura di questo debito che copre le obbligazioni sistemiche. In questo modo noi possiamo lasciare gli operatori prendere il rischio che vogliono, sapendo però che quando mettono a rischio le obbligazioni sistemiche vengono immediatamente bloccate. Certo, è che è un po' tecnico, ma insomma è un modo per evitare, per creare un conflitto tra l'assunzione eccessiva di rischio e il non pagare per questo rischio. È un modo molto semplice per far pagare alle banche il rischio che prendono. Un'altra domanda riguarda però il problema della cosiddetta governance. Allora, gli ultimi premi Nobel all'economia sono stati vinti proprio sul tema della governance. Governance vuol dire semplicemente meccanismi anche di controllo, di pesi e contrappesi interni in questo caso a un gruppo bancario, ma vale per tutti i gruppi industriali. Allora, qui è chiaro, in sostanza lei lo raccontò molto bene, gli azionisti guardano solo il valore di borsa del titolo, e va bene. Dentro i grandi gruppi bancari, in questo caso, visto che parliamo dei grandi gruppi bancari, c'è, diciamo, direbbe il francese, tutto si tiene, cioè il consigliere vota l'aumento di bonus perché poi ne avrà qualcosa in cambio, a nessuno conviene mettersi contro i vertici della banca, per cui, insomma, il ruolo del consigliere indipendente è abbastanza in ombra. Non si capisce come dentro questi grandi colossi finanziari privati si riescano a creare dei meccanismi che, per esempio, in politica esistono da secoli, cioè di separazione e controllo tra i poteri. Certo, guardi, la grossa differenza tra un sistema politico e un sistema di mercato è che per fortuna il sistema di mercato ha la competizione, e questo è quello che in genere permette una riduzione della struttura della governance, perché un meccanismo che non funziona viene eliminato dalla competizione sul mercato. Però è vero che tanto più esiste la concentrazione, in questo caso la concentrazione bancaria negli Stati Uniti si è rafforzata notevolmente durante la crisi e a causa della crisi, questa concentrazione fa sì che la competizione non funzioni come dovrebbe funzionare e quindi la governance diventa ancora più importante. Sì, io poi devo riuscire a capire appunto che come all'interno di un consiglio di amministrazione tutti non si facciano, diciamo, dei favori per quanto legittimi, e qualcuno si curi anche dell'interesse complessivo degli azionisti, degli stakeholders. Se no, quando poi tu decidi di distribuire 17 miliardi di dollari di bonus con una media di 500.000 a dipendente di dollari, per cui se questa è la media ci sarà chi prenderà qualche decina di milioni di dollari di bonus, insomma è difficile che qualcuno ti voti contro se veramente non c'è un'autorità esterna. Ultima domanda che ho per lei, professor Zingale, si riguarda l'amministrazione Obama. Perché? Perché si dice che in realtà questa paralisi, impasse della Casa Bianca nel mettere mano nel paese in cui questa crisi si è generata, coltivata ed è poi anche scoppiata, è dovuta, insomma, a un po' di conflitti di interesse. Tim Geithner, che la sua vicinanza a Goldman Sachs era anche la banca da cui veniva Henry Paulson, l'ex segretario del Tesoro. Tim Geithner all'epoca era responsabile della Fed di New York. Cioè, c'è l'idea che la lobby di Wall Street sia così forte da legare anche un presidente carismatico indubbiamente come Barack Obama. Sicuramente, secondo me è un rischio serio, e secondo me la scarsa conoscenza nel campo e la scarsa conoscenza amministrativa di Obama giocano un ruolo negativo in questo senso. Sì, anche perché, come scritto su Sole 24 Ore, molti dei collaboratori di Tim Geithner, del team per risolvere la crisi, erano protagonisti di Wall Street, gestivano fondi hedge, grandi banche, insomma c'è un po' troppa commistione. Come si fa a spezzare questo nodo? Beh, secondo me ci vogliono delle regole più serie sul turnover, cioè revolving door, come si dice, cioè è troppo facile girevoli. Passare da un posto all'altro, passare dall'amministrazione all'industria privata, e secondo me negli Stati Uniti è anche necessario pagare meglio i dipendenti pubblici, perché uno dei problemi fondamentali è che non esiste una buona scuola di civil servant, perché sono pagati talmente poco che appena sono intelligenti vanno a lavorare a Wall Street. Il risultato è che quelli che rimangono sono i peggiori. Grazie, vedremo, anche perché insomma i casi sono oggettivamente imbarazzanti anche per la stessa amministrazione Obama. Grazie per ora a Luigi Zingales, docente di imprese e finanze all'Università di Chicago, in collegamento con noi appunto da Chicago, editorialista del Sole 24 Ore. Vedo anche messaggi sul tema delle porte scorrevoli. Sì, in sostanza la critica è porte girevoli, per essere precisi, è che si passi con troppa facilità negli Stati Uniti, ma non solo, tra un incarico privato in una grande banca d'affari e un incarico pubblico in un ministero, per poi tornare in una banca d'affari, per cui siccome tutti tengono famiglia a questo mondo, forse se uno poi sa che deve tornare in una banca d'affari, e anche ha un occhio di riguardo per le stesse banche d'affari. Comunque, adesso ci sono le informazioni meteo e la pubblicità, poi commentiamo questa borsa che ha chiuso in calo dello 0,7%, con risanamento oggi peggior titolo, meno 13,8, Tiscali, attenzione di nuovo ai prezzi, meno 7,5, e miglior titolo Telecom Italia Media, 11,6%, e anche sul risparmio più 7,2, Seat più 4,5. Tra i titoli maggiori segnalo come miglior titolo Buzzi Unicem più 1,6, come peggior titolo invece Geox meno 3%. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la chiusura di borsa in una settimana comunque positiva, come ricordavamo, per tutti i mercati. Oggi hanno prevalso i realizzi, quindi vendite per portare a casa anche i guadagni. Geox meno 3%, STMicroelectronics meno 2,5%, Fondiaria meno 2,40%, Pirelli meno 2%, Mediolanum meno 1,80%, Ansaldo meno, STS meno 1,7%, l'1,6% l'hanno perso le generali, Prismian e il Banco Popolare, 1,5% del calo di Intesa e di Autogrill e di Impregilo, l'1,4% quello di Parmalat e di Unicredito, l'1,3% infine l'hanno perso Fiat e la Popolare di Milano, mentre l'1% è la flessione di Finmeccanica e Mediobanca. Chi più ha guadagnato? Buzzi Unicem più 1,6, Campari più 1,2, Media 7,5%, Monte dei Paschi anch'essa 0,5% di rialzo, come Eni lo 0,4% lo ha guadagnato Tenaris, lo 0,3% Atlantia, tra chi invece in assoluto ha guadagnato di più, Telecom Italia Media, dicevamo più 11,6, Risanamento meno 13,6, il peggior titolo, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, per quello che riguarda i temi, partiamo proprio da Telecom Italia Media, come mai questo movimento? Guarda, non abbiamo trovato riscontri particolari, ci sono sempre le solite voci che ovviamente Merrill Lynch sta raccogliendo appunto delle offerte per gli asset messi in vendita dalla società, può darsi che qualcuno scommetta che siano in arrivo novità. Di fatto in borsa, a parte qualche rumor di questo genere, non è che siano circolate notizie particolari, però nel pomeriggio appunto i titoli si sono repentinamente mossi al rialzo segnando questa performance. Ancora tra i titoli maggiori invece, Conti Nokia male, giù l'intero settore delle telecomunicazioni. Già ieri Nokia aveva pagato molto sia in Finlandia ma anche da noi, e mi sembra che STMicroelectronics ne paghi le conseguenze anche oggi, meno 2,5%. A questo proposito apro un inciso, perché il settore dei telefonini ha avuto una forte flessione ieri con i Conti Nokia, ma nel mercato dei PC e quindi dei computer c'è stata una leggera ripresa di vendite, più 0,5%, e addirittura 2,5% secondo una società che si chiama IDC, e Hewlett Packard viene confermato come primo produttore mondiale, ha quasi il 20% di tutti i computer prodotti al mondo, leggo l'agenzia insieme a voi, ma per la prima volta la taiwanese Acer è arrivata al secondo posto. Su questo poi torniamo alla borsa, però visto che il settore dell'information technology vede andare molto male in questo periodo la telefonia, qualche segnale di risveglio invece sui PC e sui computer. Abbiamo chiesto a Enrico Pagliarini di intervistare Gianfranco Lanci, che è presidente e amministratore legato di Acer Group. Quello che vediamo, almeno per quanto riguarda i consumi, sicuramente pian piano ci avviciniamo alla fine del tunnel. Direi che non siamo ancora fuori, ma incominciamo a vedere tutta una serie di lati di segnali positivi che prima non si vedevano. Secondo me le uniche incertezze che ancora esistono per dire che questa sia solida da un punto di vista di ripresa piuttosto che non sono, da un lato, la disoccupazione. Ancora secondo me i livelli di disoccupazione sono troppo elevati e questi sicuramente possono incidere sul livello di consumi. E il credito, ancora diciamo non c'è disponibilità di credito per le aziende, che siano esse piccole, medie, insomma di qualunque tipo di azienda, e questo ovviamente può essere un altro limite pensando alla ripresa. Lei però dice che c'è una correlazione tra il prodotto interno lordo dei paesi e la vendita dei PC, del mercato dei PC. Ecco, a proposito del mercato vostro, quali sono le vostre previsioni? No, a proposito del mercato c'è sicuramente una correlazione, lo si vede durante gli anni, che crescendo GDP cresce il mercato, diminuendo GDP diminuisce il mercato. Quest'anno, questa volta, durante questa crisi, è stato l'impatto sul mercato dei PC è stato molto meno pesante che non nel 2000-2002, la crisi passata. Secondo me semplicemente perché i PC oggi costano molto meno di quanto non costassero da un punto di vista di living standard, che non di quanto non costassero nel 2000. Quello che stiamo vedendo è che mobile ha sempre continuato a crescere, nel senso che continua a crescere, quest'anno continuerà a crescere probabilmente nell'ordine del 15%, un altro anno torneremo a vedere crescite del 25%. I desktop, che sono quelli che hanno sofferto molto, perché invece erano a meno 15-20% di crescita negativa, quello che ci aspettiamo è che probabilmente tra il quarto trimestre e l'inizio dell'anno prossimo si riportino a zero crescita o una piccola crescita, ma questo aiuterà comunque l'intera industria a vedere una crescita, a rivedere una crescita a due digit a partire dal prossimo anno. Quindi, come avete sentito, maggiore ottimismo e comunque serenità verso l'evento futuro nel mondo di chi produce personal computer. ST Microelectronics -2.5, ha ragione chi dice non ci sono realizzi su ST Microelectronics, è vero, il titolo non ha corso così tanto, io parlavo di realizzi complessivamente sul mercato. Comunque, Eleonora. Appunto, come hai detto tu, ST ha risentito dei conti di Nokia, fondamentalmente, anche perché ricordiamo che Nokia è il primo cliente di ST e conseguentemente anche numerosi analisti ed esperti del settore hanno finito per vedere un po' le stime sui conti futuri della stessa ST, ecco perché il contraccolpo delle azioni, contraccolpo che comunque è in linea un po' anche con l'andamento del comparto tecnologico in Europa, che non è andato male come ST, comunque ha registrato un ribasso di oltre mezzo punto percentuale. Ancora con i titoli, quelli chiaramente del principale del FTSE MIB, Geox -3%, non ho visto grosse novità in giro per Eleonora. Guarda, comunque oggi va detto che ricorrono le scadenze tecniche, sì. Conseguentemente molti titoli di fatto si sono mossi senza ragioni specifiche, senza supporto, cioè né di notizie né di dati o anche di rumor, ma semplicemente perché ricorrevano le scadenze tecniche, dunque magari nei giorni scorsi erano salite e oggi hanno diciamo un po' rallentato la corsa proprio perché non avevano più il supporto di derivati. E conseguentemente, appunto, ripeto, molti titoli hanno registrato un andamento che poi è difficilmente spiegabile. Ancora Eni, abbiamo dato la notizia del giacimento in Venezuela e ha guadagnato mezzo punto percentuale. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, gli altri titoli, quelli che invece oggi hanno, che anche oggi hanno chiuso bene, Buzzi Unice in più 1,6% e anche Campari più 1,2%. Di nuovo in diretta, allora si diceva, Eleonora Micheli, Buzzi Unice in più 1,6, Campari più 1,2%. Sì, Buzzi è andata molto bene oggi, c'è un report positivo di una casa milanese, di una SIM milanese, Equita, che appunto ritiene che i titoli siano sottovalutati rispetto all'andamento, i titoli di borsa siano sottovalutati rispetto alle prospettive della società. Questo ha riacceso comunque un po' i riflettori e poi, ripeto, comunque hanno inciso molto anche le scadenze tecniche. Ancora sulle scadenze tecniche, parliamo adesso di Telecom Italia, c'è una debolezza dovuta anche a alcune dichiarazioni, meno 0,34% alla fine del titolo a 1,18€, ma anche qui c'è una scadenza non tanto tecnica quanto proprio il patto telco, che con il 40%, più del 40% è l'azionista di maggioranza del gruppo Telecom Italia. Sì, oggi infatti l'azionista Fossati, che detiene il 5% del capitale della compagnia telefonica, ad aver riacceso i riflettori su Telecom Italia e appunto auspicando uno scorporo della rete di Telecom Italia. E poi c'è lo stesso Fossati auspica ancora una possibile uscita degli spagnoli. Tra l'altro nel pomeriggio anche Asati, l'associazione degli azionisti di Telecom Italia, è tornata sull'argomento e appunto auspica che ha invitato gli azionisti del patto telco, ricordiamo la scatola che controlla il 24,5% di Telecom Italia, a disdire il patto e avranno tempo entro il 28 ottobre, quando il giorno in cui scadrà sarà possibile appunto disdire il patto, soprattutto perché secondo Asati l'azionista telefonica che detiene peraltro la maggioranza di Telco è in conflitto di interessi con Telecom Italia. Di sicuro da qui al 28 ottobre usciranno notizie, rumor, ipotesi, anche se anche ieri il presidente di Telecom Italia ha cercato di rassicurare Gabriele Galateri asserendo che c'è compattezza appunto anche tra i soci di Telco. Ancora oltre a Telecom Italia, oggi tra i bancari abbiamo visto in evidenza solo Monte dei Paschi più 0,5%. Sì, sul Monte dei Paschi il mercato si interroga se sia effettivamente in arrivo la notizia della cessione dei 150 sportelli che l'istituto ha messo in vendita da un bel po', poco dopo appunto l'acquisizione di Antonveneta, ma poi le condizioni di crisi sui mercati finanziari hanno ritardato la tempistica. Secondo le ultime indiscrezioni pare che sia in pole position Berkeley, si è interessata a ben 135 sportelli, lo stesso Vigni che è il direttore generale dell'Istituto Senese proprio oggi ha detto che effettivamente ci sono delle offerte, ci sono numerose offerte e quindi questo appunto ha un po' fatto salire la tensione sul titolo. Ancora sempre sul mercato, al di là dei bancari, dicevo deboli gli altri perché UbiBanca ha perso uno 0,5%, volete sapere dei bancari, Unipol meno 0,7%, Popolare di Milano meno 1,30%, Unicredit meno 1,36%, Intesa meno 1,5%, come il Banco Popolare, Generali meno 1,6%, Fondiaria meno 2,4%. I migliori e peggiori, abbiamo già citato il caso Telecom Italia Media, non abbiamo parlato di risanamento, che ieri si era avvantaggiata del fatto che la procura non abbia bloccato, non si sia dichiarata contraria al piano di risanamento. Oggi perde il 13,8. Sì, il mercato si è reso conto che non è che sia una vittoria. Ha solo preso più tempo alla fine. Esatto, è semplicemente slittato il verdetto del Tribunale di Milano, ma ancora tutto è in palio. Cioè, ovviamente i giudici devono ancora pronunciarsi e non è detto che decidano il meglio per la vita dell'azienda, ma possono alla fine anche appoggiare, sposare la tesi della procura. È tutto da vedere nei prossimi giorni. Ancora tra i singoli titoli, Tiscali meno 7,5%, possiamo chiarire dopo tre sedute in cui abbiamo detto giustamente di stare attenti perché non erano confrontabili i prezzi di Tiscali, insomma meno 7,5%? Sì. Allora, va detto che i titoli hanno perso il 7,5%, si sono sgonfiati seguendo la scia di ieri. D'altra parte le azioni in borsa valgono 1,11 euro. I diritti connessi alle azioni sono scambiati a 2,18 euro e hanno registrato un calo del 2,24%. Questo significa che acquistando un diritto acquisto appunto il diritto di acquistare delle azioni Tiscali a 0,17 euro, livello ben distante da 1,11 euro al quale vengono scambiate in borsa. Ovviamente questo dislivello è possibile perché non essendoci la presenza di arbitraggisti, visto che la Consob ha vietato le vendite allo scoperto su società oggetto di aumento di capitale, non è possibile, i titoli tendono a non allinearsi, tant'è che due giorni fa si è pronunciato anche il segretario di Assosim dicendo che dovrebbero invece essere reintrodotte le vendite allo scoperto proprio per garantire la maggiore efficienza del mercato. È da vedere che succederà nei prossimi giorni. Va detto di sicuro che il prezzo delle azioni 1,11 euro assolutamente disallineato a quello dei diritti per i quali le azioni valgono invece 0,17 euro. Vabbè, no, è un tema abbastanza... È un calcolo matematico, matematico. Non possiamo, vedo che alcuni scrivono proprio sull'evento dello scoperto, non è che possiamo adesso aprire il tema dell'evento dello scoperto nei pochi minuti che mancano al GR. Ho giusto il tempo, anzi no, non ho neanche quel tempo. Saluto e ringrazio Donora Micheli e do l'auguro di buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Corriere. Sulle 24 ore ho il tempo, questo ce l'ho, per darvi l'aggiornamento da Wall Street, che perde adesso l'1,15% e il rapporto di cambio euro-dollaro 1,4884. Adesso c'è il GR, poi Parleremo da un lato di export, con questo dato che ha un po' gelato le attese di una ripartenza del commercio mondiale, e di questi prezzi dell'agricoltura. I produttori, non è la nostra fissazione, ma i produttori stanno vendendo delle volte sotto il prezzo di costo, e invece la grande distribuzione, i grossisti, insomma chi poi porta questi prodotti al consumo, non solo non li fa abbassare, ci sono anche dei leggeri rincari, e non se ne esce. Minuti, seconda e ultima parte di Focus Economia. Allora, come detto, ci occupiamo di commercio con l'estero, dei dati usciti oggi da un lato, e di nuovo torneremo sui prezzi del mondo agricolo. Vi do un aggiornamento sul petrolio: è sceso leggermente a 77,2 dollari al barile, aveva aperto oltre 78 dollari, che era il massimo da un anno a questa parte, dopo un dato sulle scorte americane di benzina scese la scorsa americana più del previsto, perché è sceso, o anzi perché era salito soprattutto anche per tensioni internazionali, penso soprattutto alla Nigeria, che è il primo produttore dell'Africa continentale. Compagnie aeree, l'agenzia di poco fa, sono stati persi 35.000 posti di lavoro, e questo è il dato complessivo del 2009, e ossia di quanto pesa sul settore del traffico aereo la crisi economica. Il calo dei passeggeri sarà pari a 22 milioni di persone che voleranno in meno, e una perdita operativa complessiva, dice l'AEA, che è l'associazione delle compagnie aeree europee, di 2 miliardi e 900 milioni di euro, il 50% in più rispetto a quella record del 2001, e stiamo parlando solo di compagnie aeree europee. 22 milioni meno di passeggeri, quasi 3 miliardi di perdita operativa, il 50% in più, e posti di lavoro persi a rischio, 35.000 persone che diventano 60.000 se si parla dell'indotto. E mentre dagli Stati Uniti arriva una buona notizia, ossia la produzione industriale che è cresciuta più di ogni attesa, più 0,7%, guardando all'Italia ci siamo accorti che nel mese di agosto si è interrotto un percorso tra virgolette virtuoso nell'export, non tanto rispetto a un anno prima. Rispetto a un anno prima il deficit commerciale è ancora basso, perché le importazioni sono calate ben più delle nostre esportazioni, ma è il mese su mese che ci ha lasciato molto sorpresi. Infatti ad agosto rispetto a luglio c'è stato un meno 7,7% nelle nostre esportazioni, rispetto a un meno 0,8% delle importazioni, e questo, diciamo, preoccupa sul fronte proprio della dinamica e della velocità con cui il Made in Italy può riconquistare quote di mercato. Dottor Gaetano Fausto Esposito, segretario generale dell'Associazione Camere Estero, Asso Camere Estero, buonasera. Lei e a tutti i radioascoltatori. L'associazione raggruppa le Camere di Commercio Italiane all'estero, quante sono, così diamo anche... Sono 74. 74. Oggi. Per cui, 74... Prego. La prossima settimana saremo, alla fine della prossima settimana, saremo tutti a Salerno per la nostra convention mondiale. Auguri e buon divertimento, visto che stai in un bellissimo posto, ma noi siamo qui per parlare di una cosa non così bella. Allora, 74 Camere di Commercio italiane all'estero dovrebbero essere le antenne sui mercati stranieri. Lei, per, se, dato una ragione di questo calo, devo dire abbastanza inatteso, delle nostre esportazioni mese su mese, cioè rispetto a un anno fa ad agosto c'è un meno 25%, ma questo era più immaginabile. E il problema è che rispetto a luglio c'è un meno 7,7%. Cos'è, un calo della domanda internazionale, come sembrerebbe segnalare il Baltic Dry Index, ossia l'indice che misura il costo del noleggio dei cargo, che è calato bruscamente dopo aver recuperato quota a giugno e di nuovo calato a 2000 punti nel mese di ottobre? Io le dico questo calo, diciamo, se è preoccupante si inserisce in una fase, diciamo, un comunicato stampa di stop and go che sta un pochettino caratterizzando il nostro commercio internazionale. La cosa che desta qualche preoccupazione è che è un calo che è molto imputabile al mercato extraeuropeo, mentre sul mercato noi negli ultimi mesi abbiamo avuto delle performance direi in assestamento. Il penultimo dato sul mercato extraeuropeo ci dava una buona situazione. In verità a noi sembra che queste difficoltà riguardino quindi l'ex Europa, tra l'altro anche nel comunicato stampa dell'Istat questo dato emerge con una certa chiarezza. Teniamo presente però che stiamo parlando del mese di agosto, insomma, un mese un po' particolare. Teniamo presente che negli anni scorsi noi sull'extra Europa siamo andati abbastanza bene, benino, spesso meglio di molti altri. Mi scusi, abbiamo un po' di problemi sul collegamento, adesso cerco in regia anche di vedere se riusciamo a risistemare la connessione, perché volevo capire proprio questa analisi che lei stava facendo di stop and go, che poi tradotto vuol dire che hai dei mesi in cui recuperi quote e poi dei mesi in cui ti arresti, quali aree geografiche riguardi e soprattutto se riguardi complessivamente tutti i settori o c'è qualcosa che sta tenendo meglio di altri, perché ripeto, se si guarda il dato anno su anno si capisce poco. Germania meno 25,7%, Francia meno 17% e Gran Bretagna meno 23%, Spagna meno 25%, così come la meccanica ha fatto meno 27%, i mobili meno 30%, i mezzi di trasporto meno 24%, l'elettronica meno 23%, la chimica meno 26, l'abbigliamento e calzature meno 21%. Di nuovo in diretta, allora, dottor Esposito, visto che lei è il segretario generale di Assocamere Estero, il collegamento dovrebbe essere migliore adesso, mi sa spiegare... Sì, è migliore, lo sento, è migliore. Mi sa spiegare in quali settori hanno avuto tenute migliori, da un lato, e verso quali aree geografiche? Alla luce dei dati anche vostri, non solo quelli diffusi oggi dall'Istat. Sì, no, ma ripeto, la nostra sensazione è che nonostante questa battuta di arresto che, ripeto, riguarda sostanzialmente i mercati extraeuropei, siano i mercati extraeuropei quelli che daranno nell'immediato futuro, per tanti motivi, le maggiori soddisfazioni o le minori delusioni ai nostri operatori. Come lei diceva, noi abbiamo un po' il polso della situazione tramite le camere italiane all'estero e sicuramente i due grossi mercati, extraeuropei e asiatici, ci segnalano un crescente interesse da parte degli operatori. Direi più in generale, tutta la rete delle camere italiane all'estero ci segnala una forte riduzione delle operazioni che noi chiamiamo di contrazione di presenza di interesse degli operatori. Noi facciamo trimestralmente un'indagine sulla percezione degli operatori associati alle camere italiane all'estero. I dati che sono in fase di elaborazione, li presenteremo nei prossimi giorni, ci stanno dando un circa 25% di imprese che sono in fase di contrazione di mercato, che teniamo presente che tre mesi fa stavamo su valori del 35%, mentre c'è una fetta interessante, siamo intorno al 45% di imprese che si sta consolidando. Quindi questa battuta d'arresto è una battuta sicuramente di tipo congiunturale nella congiuntura, noi stiamo parlando di dati mensili, però se guardiamo anche all'andamento degli ordinativi, che sono sempre poi tra l'altro un indicatore che anticipa una tendenza, l'andamento degli ordinativi esteri, vediamo che già per esempio nel mese di settembre abbiamo avuto un consistente incremento. Noi in genere stimiamo che c'è una differenza temporale di 2-3 mesi dal momento in cui gli ordinativi si traducono poi in vendite effettive, quindi probabilmente tra 2-3 mesi potremmo avere qualche segnale di soddisfazione. Io me lo auguro, anche perché appunto da lì e dall'export, come già nel 2007 era l'export a rappresentare quel poco di crescita economica che avevamo, dovrebbero arrivare i segnali più incoraggianti per una ripresa vera e propria, che però comunque non si prevede enorme, più 0,5% l'anno prossimo, secondo la Banca d'Italia. Grazie intanto al segretario generale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, Gaetano Fausto Esposito. Grazie a voi. Ultimo tema, sapete che ogni tanto ci appassioniamo ai, appassioniamo ai tormentoni, ci appassioniamo a quelli del rapporto banche-imprese, anche a quelli dei prezzi al consumo, in questo caso dell'ortofrutta. Eh sì, mica ci sono solo i derivati, la borsa e quant'altro, c'è anche la borsa della spesa. Allora, da inizio 2000 ad oggi i prezzi all'origine dei prodotti agricoli sono scesi del 2%, i costi sono saliti del 28%, i redditi degli agricoltori hanno fatto un meno 20% negli ultimi 4 anni. E tuttora si continua a produrre sotto il prezzo di costo, perché da quello che vediamo non solo in Italia ma anche in Francia, nel caso di alcuni generi, penso al lattiero casero, ci sono cali intorno al 40%, lo ricordavamo anche ieri, mais e cereali anch'essi meno 10-20%, e fin qua tutto bene, no, perché c'è un danno per l'agricoltura, ma la beffa è che questi cali non si vedono sulla tavola, anzi i prezzi dei generi dell'ortofrutta continuano a aumentare, seppur di poco, perché l'inflazione non è altissima. Situazione non solo italiana, e lo dico mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento il dottor Stefano Masini, che per la Coldiretti è responsabile dei consumi. Buonasera dottor Masini. Buonasera. Voi siete nella prima giornata del vostro forum internazionale dell'agricoltura a Cernobbio. Dicevo, non è una situazione solo italiana, perché oggi in Francia il settore agricolo sta vivendo una forte crisi. In Francia gli agricoltori sono potentissimi, e siccome vendono per esempio un chilo di grano a 9 centesimi e gli costa produrlo questo chilo di grano a 14 centesimi, si sono messi a bruciare pneumatici ai campi Elisi, bloccando questa mattina il traffico in tutta Parigi. Sentiamo anche alcune dichiarazioni di questi agricoltori. Ces gens-là n'arrivent plus à vivre, j'en fais partie. Aujourd'hui moi je vends du blé à 9 centimes le kilo et j'ai des coûts de production à 14 centimes. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Je demande aux banques de jouer leur rôle, puisque nous sommes des entreprises, toutes petites entreprises dans nos exploitations, et à l'État de prendre en charge le coût financier finalement de cette liquidité indispensable pour que refaire de la trésorerie dans nos exploitations. E quindi un agricoltore che diceva appunto si vende un chilo di grano a 9 centesimi, lo paghiamo 14 centesimi, un altro agricoltore che chiedeva dal governo da Sarkozy un piano di aiuti per il settore agricolo intorno a 1,4 miliardi ed era il presidente della Federazione Francese degli Agricoltori Jean-Michel Le Métayer. Che cosa sta succedendo al mondo dell'agricoltura? Perché i prezzi vostri sono così bassi, quelli cui riuscite a vendere i prodotti, da farvi lavorare sotto il livello di costo, e perché non vediamo nessun prezzo in calo sulla nostra tavola? Prego Masini. Sì, è una situazione, come si ricordava, europea, e proprio in questi minuti il Ministro ci ricordava come lunedì sarà presente un consiglio in Europa in cui 21 paesi lamentano le difficoltà, ad esempio nel settore lattiero caseario, un litro di latte ancora oggi in Italia ha un prezzo alla stalla di 31 centesimi e vediamo gli effetti andando nello scaffale del mercato ad acquistarlo a 1,50 euro, 1,60 euro, perché credo che proprio un sondaggio che abbiamo presentato questa mattina sui valori dell'agroalimentare italiano diano conto del fatto che anche i cittadini consumatori abbiano la percezione di alcuni elementi distorsivi della filiera. Anzitutto la lunghezza dei passaggi, esistono più fasi attraverso le quali il prezzo dal campo alla tavola moltiplica il valore, giungendo sullo scaffale con un effetto moltiplicatore. Prendiamo proprio ad esempio la carota, un aumento del 1300%, pochi centesimi, sotto la soglia dei 10 centesimi in campo arriviamo appunto sullo scaffale a un prezzo superiore all'euro, e quindi ricarichi eccessivi che sono applicati dai commercianti e in particolare la grande distribuzione che interviene per ragioni di logistica a catturare la parte maggiore, più consistente di questo. Mi scusi, Masini, ma è la grande distribuzione, quindi grandi supermarket, grandi catene, o sono anche i grossisti del settore ortofrutta, cioè quelli che poi operano nei mercati ortofrutticoli? Ma la grande distribuzione distribuzione, tra l'altro, secondo proprio un'indagine dell'autorità garante della concorrenza del mercato, è l'operatore, tra l'altro ricordiamo che sono 7 le centrali di acquisto e attraverso queste 7 centrali di acquisto è controllato il 70% dei beni alimentari che sono immessi al consumo, quindi una sorta di controllo del mercato. Ecco, in questo caso la grande distribuzione agisce anche come primo operatore verso direttamente gli agricoltori, quindi è anche capace di accorciare la filiera, ma in generale dalla posizione di controllo del mercato c'è una sorta di controllo anche dalla fissazione del prezzo, sia con le private label, cioè con il marchio del stesso la grande distribuzione, sia operando attraverso il controllo. Ecco, mi scusi, ma le autorità di controllo dove sono? Cioè, nel senso che il mercato è libero, per carità, però adesso io ve la leggo molto velocemente, alcuni rincari nella filiera e qualcuno qua deve intervenire. Perché? Allora, il latte, lo citavamo prima, meno 30% nel 2008 il prezzo alla produzione e invece costa 1,35 euro con un rincarico del 350% dal campo, dalla mucca, dalla stalla alla casa. Il pane, meno 33% il prezzo alla produzione, eppure il ricarico, qui c'è di mezzo anche l'attività del panettiere, però è del 1800%. La pasta ha fatto un meno 30%, continua a costare 1,40 euro al chilo. Le carote addirittura meno 70% il prezzo delle carote al campo e continuano a costare 1,20 euro con un ricarico del 1100%. L'uva meno 20%, continua a costare 2 euro e ricarico del 320%. E chiudo con le pesche, meno 50%. Il prezzo delle pesche alla produzione continuano a costare 1,75 euro al chilo, il ricarico del 465%. Ma non ce l'avete un'autorità di vigilanza? Guardi, io credo che l'autorità garante stia intervenendo nel periodo più recente con efficacia, ad esempio sanzionando il comportamento, il cartello che l'associazione dei pastai aveva formato in relazione al controllo dei prezzi, quando appunto il valore del grano è sceso vertiginosamente, il prezzo al consumo di pane e pasta sono aumentati. Dall'altra parte Coldiretti ha messo in campo un vero e proprio progetto economico lanciando il ruolo dei consorzi agrari d'Italia per rimuovere queste distorsioni. Quindi da un lato chiediamo più controlli per rimuovere queste distorsioni del mercato e sanzionare l'abuso di posizione dominante che le grandi catene di distribuzione oggi realizzano sul mercato, ma dall'altro lato ci siamo anche messi in gioco come sistema di imprese attraverso la creazione di una rete più efficiente di servizi e il tentativo di andare a modificare le relazioni industriali accrescendo il peso dell'agricoltura attraverso la concentrazione dell'offerta e una presenza diretta sul mercato, sia con i farmer market, quindi con i punti vendita nelle città, sia in particolare attraverso una più adeguata rete di distribuzione che faccia capo su questi consorzi. Io ve lo auguro, anche perché appunto con la consorzio agrari voi dovete trovare un modo per accorciare la catena. Stiamo parlando di 1300 punti vendita a cui fanno riferimento 300.000 imprese agricole con 3 miliardi di euro di fatturato. Staremo a vedere. Grazie comunque al responsabile consumi della Coldiretti, Stefano Masini. Grazie. Allora, alcuni di voi contestano che i prezzi che abbiamo dato per pasta e latte sono troppo alti, erano prezzi medi, siamo sicuri che in molti esercizi possono essere anche più bassi, ma il punto chiaramente non è questo, è capire se qualcosa cala come prezzo alla fonte, deve esserci un calo anche nella parte competente nel prezzo alla vendita. Ma è una vecchia storia e con questo vi saluto, vi auguro buon fine settimana, ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Focus Economia.